Sono uscito al negozio dove andavo a fare la spesa, ho sentito due uomini che parlavano e dicevano: sì, quest'estate mi sa che ci toccherà mettere un campo di patate per far fronte alla crisi. Mi sa che farò lo stesso anch'io. Buona giornata. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Buongiorno, buongiorno. Deborah, come stai? Sto molto bene, grazie. Stavo riflettendo sulla scelta musicale di questa mattina, perché se vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Franco Battiato, dato il momento che vive il paese, forse sarebbe stata indicata più la canzone La Cura. Sì, però guarda, secondo me il centro di gravità permanente, che è una selezione dei nostri due badanti, sai che adesso abbiamo due badanti, ormai lo sanno anche gli ascoltatori, uno da remoto, il badante titolare per così dire, cioè Marco Lombardo, che salutiamo, e poi c'è il badante di prossimità, quest'oggi è Danilo Di Trani, lo ringraziamo, ecco. Grande fratello nerazzurro peraltro. Ecco, lo sapevo che saresti caduto lì, ma dimmi allora, qual è la tua interpretazione della scelta canora di stamattina? Guarda, vedrai che convinco tutti, persino Paolo Corleoni che mi guarda sospettoso dalla regia. Sbigottito, sbigottito. Allora, sì. Io ho qui e posso mostrarlo a beneficio di coloro che ci seguono sul Facebook e gli altri social che consentono di vedervi anche, di vedere la mia persona per quello che può valere. Ho qui il poker di provvedimenti di cui dobbiamo fare, come dire, tesoro e riassunto per capire cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Allora, ho un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo, un'ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo, un'ordinanza della Regione Lombardia e poi il decreto legge numero 18 che, come sai, da settimana scorsa tutti ci illumina. Allora, io qui veramente cerco un centro di gravità permanente. Cioè, ma cosa posso fare e non posso fare? Non so, per farti un esempio, ma io un rogito, per dire, oggi come oggi lo posso fare o no? Allora, dunque, in teoria secondo me lo potresti fare perché i notai non hanno la possibilità di chiudere bottega e devono continuare a garantire operatività sul territorio essendo dei pubblici ufficiali. Il punto è, come dire, è opportuno che ci si raduni in tre o quattro persone all'interno di questi studi professionali. Peraltro, anche sull'apertura degli studi professionali di altra natura, commercialisti, che ne so, geometri, avvocati. C'è tutto un conflitto di normativa, perché credo che in Lombardia ci sia il divieto di apertura di queste attività. Nel resto d'Italia, invece, l'operatività deve ancora essere garantita e quindi come ci dobbiamo comportare, caro Mauro? Guarda, io lì sto cercando di trovare una sintesi perché l'ordinanza lombarda dice lo studio è chiuso salvo che ci siano delle scadenze, allora lì deve garantire naturalmente privilegiato lo smart working, l'ordinanza nazionale invece non dice, allora bisogna trovare appunto un centro di gravità permanente certo, pure lì. E però visto che le scadenze sono state tutte rinviate, di quali scadenze stiamo parlando? In questi giorni anche lì si aprirebbe un ulteriore dibattito, no? Ma guarda, allora noi abbiamo degli esperti di valore mondiale. Ce li abbiamo sì, anche direi oggi. Di sì. Oh. Oggi abbiamo scomodato i notai, peraltro lo anticipo già, ne abbiamo scomodato uno davvero simpatico e brillante e ha avuto modo di raccontarmi prima di far partire la nostra trasmissione che lui si raccomanda con tutti i suoi clienti intanto di arrivare puntuali e non con troppo anticipo nel suo studio perché in questo momento, come sapete, è fortemente raccomandato il distanziamento sociale per cui è inutile che vi presentiate con due ore di anticipo per stipulare un rogito qualora possa essere stipulato questa mattina. Presentatevi puntuali, quindi evitiamo degli assembramenti inutili e mi è sembrato molto simpatico anche raccontare questo aspetto di vita quotidiana ai nostri ascoltatori perché tutti probabilmente in questo periodo avremo le nostre più o meno gradevoli disavventure da poter condividere appunto con gli amici che ci seguono da casa. Caro Mauro, oltre a questo faremo ovviamente il Meteo Borsa, il giornale radio del risparmio. Possono sempre intervenire in diretta gli ascoltatori? Ma certamente, ci mancherebbe altro. 800 24 00 24, il fratello nerazzurro Danilo Di Trani è già lì che aspetta per intervenire in diretta. tutto quello a cui sappiamo rispondere noi, o più probabilmente i nostri esperti, sarà esaudito. E il resto, signori, come diciamo ormai da qualche giorno, abbiamo pazienza, dobbiamo tutti aver pazienza, aspettiamo istruzioni su istruzioni. Io non ho citato nel poker di provvedimenti tutte le varie, i vari messaggi usciti dall'INPS, l'Agenzia delle Entrate, tra venerdì e sabato, sì, ma pure quelli ci hanno dato da fare. Se volete scriverci, già lo state facendo, però se chi non so non avesse familiarità col nostro numero per gli SMS o messaggi WhatsApp, allora il numero è 349-238-6666. Adesso vuoi andare subito col Meteo Borsa, che anche lì mi sa che ci vuole un centro di gravità permanente. Mi farebbe piacere togliermi subito questo tema questa mattina. Andiamo. Meteo Borsa. Il nostro meteorologo della settimana, lo salutiamo con piacere, Luca Tobagi, investment strategist di Invesco, che salutiamo. Buongiorno e buona giornata, almeno speriamo, per voi operatori dei mercati finanziari. Tobagi, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, al solito mi impegno nel fare la carrellata sull'andamento in questo momento dei mercati finanziari. Io non vorrei avere la piattaforma che sta sbagliando direzione, ma vedo che sta cambiando la direzione di marcia a Parigi. La seduta era partita molto male per tutti gli indici continentali, si mantiene ancora... Ah no, aspettate un attimo, che forse sto guardando una cosa diversa. E infatti stavo guardando i futures che ci davano un'indicazione sull'andamento delle prossime ore dei mercati. Al momento abbiamo ancora un quadro negativo ovunque. Francoforte perde il 3,30%, Londra meno 4,16%, Parigi meno 3,13%. Per quello che riguarda Milano abbiamo un ribasso di 3,5 punti. Allora, il malumore di questa mattina, oltre al fatto, caro Mauro, che i mercati provano già a quantificare quanto peserà questo lockdown, come si dice in questi giorni, mondiale, cioè la paralisi praticamente di tutte le attività economico-produttive, stanno provando ovviamente gli operatori a quantificare quanto effettivamente ci saranno delle ricadute in termini economici da qui ai prossimi mesi, ma c'è anche come dire, un tentativo di quantificare l'impatto delle misure che stanno arrivando da parte degli stati, delle banche centrali. Siamo stati appesi nelle ultime giornate alle decisioni del Congresso americano, che dovrebbe dare il via libera, ma ovviamente repubblicani e democratici si accapigliano anche lì, a questo maxi piano che giorno dopo giorno peraltro implementa il suo budget. Adesso siamo arrivati a 2.000 miliardi di dollari, quindi intanto le grandi attese delle prossime ore si concentreranno probabilmente qui. E quindi, come prima domanda, Luca Tobagi, vorremmo fare proprio questa: intanto, quanto è importante il piano che arriverà dagli Stati Uniti, dove il numero dei contagi sta veramente avendo questa famosa crescita esponenziale, che è il termine più preoccupante che si utilizza in queste settimane. Quindi partiamo da qui, Tobagi, poi andremo anche un po' alla situazione nella quale si trova il vecchio continente, nella quale ci troviamo noi. Sì, sicuramente tutti questi provvedimenti sono importanti e giustamente, come sottolineavate voi, il fatto che adesso cominci a incrinarsi quella concordia che fino adesso si era osservata non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi per questo genere di interventi, per cui la dialettica e soprattutto la conflittualità politica ricomincia a vedersi anche su temi che dovrebbero essere considerati di interesse generale, quindi prioritari, sicuramente ci farà sì che la volatilità rimarrà ad accompagnarci anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'aspetto indubitabilmente positivo è che avevamo già messo in saccoccia nel corso della settimana scorsa un pacchetto di stimolo fiscale da 1.200 miliardi di dollari, che non dimentichiamocelo sono più o meno il 5,5% del PIL dell'economia più grande del mondo, quindi comunque non è che stiamo parlando di niente che si può già utilizzare, però il segnale è abbastanza importante, soprattutto perché la mia opinione è che noi dobbiamo inquadrarli bene questi stimoli, cioè questi stimoli non servono a dare un sollievo all'economia oggi, non possono fare niente per frenare la diffusione del virus e possono fare molto poco per sostenere l'economia mentre, ad esempio, ci sono in azione provvedimenti di lockdown, no? Per cui le aziende non possono produrre, i consumatori non possono uscire a spendere anche se gli si mettono i dollari in tasca. Tutti questi provvedimenti devono servire a mantenere l'infrastruttura economica vitale e pronta a reagire nel momento in cui invece i cancelli, a un certo punto succederà, si apriranno di nuovo per tutti quanti, no? Quindi le persone che giustamente oggi stanno in casa potranno uscire dalle gabbie, le aziende potranno ricominciare a lavorare. Quindi questo è l'aspetto importante da inquadrare, cioè sperare che le prime crepe nella dialettica politica oggi non vadano a inficiare la possibilità del governo americano e anche di tutti gli altri poi di mantenere viva l'economia in una fase di dormiveglia che non sappiamo quanto durerà. Certo. Mauro, tra l'altro oggi il mercato sperimenta anche la sospensione delle regole di bilancio europee che è stata decisa sostanzialmente venerdì scorso, è stata comunicata da Ursula von der Leyen e adesso dovrebbe avere il via libera anche dall'Ecofin, per cui anche questo è un aspetto importante. Che cosa ne pensi, Mauro? Sì, tra l'altro appunto ascoltavo la precisazione del dottor Tobagi, di Luca Tobagi, mi sembra molto puntuale il fatto di comprendere che tutti questi stimoli, noi leggiamo di questi miliardi, oramai cifre imponenti, che però vediamo poi non avere effetto. Abbia pazienza, Tortobagi, ma noi meno avvezzi a consultare i listini abbiamo delle difficoltà a comprendere come mai, se Trump, piuttosto che l'Unione Europea, piuttosto che anche il governo italiano, mettono sul piatto miliardi come se avessimo varato decine di manovre finanziarie in due giorni, i mercati comunque la prendono male, cioè continuano a prevalere le vendite anziché gli acquisti. Lei dice, ma questo ci serve, ci servirà dopo. Quindi questa discesa sostanzialmente, almeno per questi giorni, per questa settimana, presumibilmente andrà a proseguire, ci sarà comunque uno scivolamento ancora verso il basso? Questo è un rischio concreto, nel senso che i mercati hanno, nelle ultime due settimane in particolare, con i crolli violenti a cui abbiamo assistito, hanno cominciato a apprezzare degli scenari piuttosto pessimistici per l'andamento dell'economia, per l'andamento degli utili aziendali. Con l'inizio di aprile cominceremo ad avere le prime informazioni sui risultati trimestrali delle aziende, quindi vedremo che cosa succederà effettivamente. È chiaro che nel momento in cui i mercati cominciano a realizzare che tutti gli stimoli di questo mondo, fiscali e monetari, non possono andare a ridurre il fattore di incertezza più vicino a noi, questo ovviamente continua a pesare, no? E quindi continuano a esserci forti ondate di vendite proprio legate alla difficoltà estrema di quantificare il danno. Dall'altra parte però io sono anche convinto che proprio perché gli stimoli che sono messi in campo sono giganteschi, sono mai visti prima e stiamo cominciando anche ad avvicinarci a cambiamenti proprio filosofici, no? di alcune parti dell'architettura istituzionale in Europa e magari anche in altre aree, no? Dal punto di vista della politica economica. Queste cose secondo me faranno sì che nel momento in cui si sblocca la situazione sul versante della diffusione del virus, i mercati potrebbero reagire positivamente molto prima e molto più velocemente dell'economia. E noi questo lo auspichiamo, no Mauro? Direi che è quello che ci auguriamo un po' tutti, cioè che infatti i mercati siano adesso più pessimisti di quanto possa far prevedere l'evoluzione, certo, soprattutto la situazione sanitaria. Prego Deborah. Volevo fare una piccola consueta Polaroid della situazione su Piazza Affari in questo momento con i migliori e peggiori titoli. CNH Industrial in assoluto il peggiore, c'è un ricambio ai vertici, meno 12,8%, poi abbiamo un ribasso molto forte per Unicredit, meno 6,5%, Exor Holding di casa Fiat, meno 5,87%, Ferrari, meno 5,54%, ST Macro Electronics, meno 4,31%, Amplifon, meno 4,52%, Pirelli, meno 3,50%. Fra i migliori segnaliamo, caro mio, Juventus, non si capisce perché oggi fa fra i titoli più gettonati, più 2 punti percentuali, più 3,3% per Nexiva. Continua ad andare bene Diasori, nella società farmaceutica che ha avuto il via libera negli Stati Uniti alla, al test diagnostico veloce per il coronavirus, e quindi questa è un po' la situazione di Piazza Affari. Come ultima domanda vorrei chiedere a Tobagi quali sono, visto che si naviga comunque un po' a vista, ancora prendere delle posizioni di lungo termine mi sembra abbastanza complesso, quali sono a questo punto i temi che dovremo monitorare allora questa settimana. Ancora l'attivismo delle banche centrali, peraltro c'è la riunione della Bank of England che ha tagliato ai minimi storici i tassi di interesse nel Regno Unito la settimana scorsa, e quindi ancora forse qualche intervento delle banche centrali ce lo dovremmo aspettare. Tobagi. Esatto, penso di sì, penso proprio di sì. Penso anche che dovremmo fare attenzione nell'ambito degli annunci delle banche centrali a tutto ciò che riguarderà l'immissione di liquidità a brevissimo termine e a misure direttamente mirate al sistema bancario, a sostenerlo, a facilitare la concessione di credito, cosa che per esempio la Banca Centrale Europea ha fatto nell'ultimo intervento. Ho discusso per alcune dichiarazioni di Christine Lagarde, ma comunque che conteneva questo provvedimento molto importante, e sia la Banca d'Inghilterra che la Banca Centrale Europea nelle ultime settimane hanno di fatto rilassato molto alcuni stress test. Quindi anche questo è un aspetto da tenere presente, una delle cose a cui mi riferivo quando dicevo alcuni paletti istituzionali importanti stanno cambiando, no? Cioè siamo perfino arrivati al punto che le istituzioni decidono di concedere un allentamento della regolamentazione prudenziale al canale bancario pur di metterlo in condizione poi di poter resistere agli shock senza dover ricorrere a una ricapitalizzazione che sarebbe estremamente onerosa e restrittiva in questa fase. Volevo chiedere un'ultima cosa a Tobagi, Mauro, ma questa è proprio una curiosità, ci porta via 40 secondi, poi andiamo con il giornale Radio del Risparmio. Il New York Stock Exchange, la borsa americana, ha ceduto al Covid-19 e ha deciso di chiudere temporaneamente il suo prestigioso trading floor, cioè si chiude proprio. Sappiamo che quasi tutti gli scambi a livello mondiale avvengono ormai su piattaforme elettroniche, però c'erano ancora delle attività marginali che avvenivano appunto fisicamente parlando. È importante questo aspetto, secondo voi è più un impatto emotivo? Potrà avere più un impatto emotivo in questa giornata, è stata già comunicata da giorni la notizia, quindi da oggi la serrata inizia ufficialmente, ma simbolicamente rappresenta qualcosa anche questo, Tobagi? Secondo me sì, secondo me ha una valenza simbolica abbastanza importante, e come dicevate voi le transazioni ormai avvengono quasi tutte in digitale, per cui insomma l'impatto pratico della misura, che comunque era stata ampiamente annunciata, è ridotto, dovrebbe essere ridotto, però sicuramente io posso dire che mi sembra comunque un bel segnale nei confronti di un mondo dell'economia, della finanza, che spesso anche di fronte all'inizio di questa emergenza, no, è stato dipinto un po' come cinico, perché ci sono state degli aspetti di lentezza, di resistenza ad adattarsi a una realtà che era difficile da inquadrare nelle dimensioni, nelle proporzioni in cui poi si è rivelata drammatica, no? Secondo me è un bel segnale comunque dire guardate che comunque insomma anche noi facciamo assolutamente la nostra parte. Perfetto. Come tutti gli altri. Va grazie. Bene, e allora speriamo che, come dire, tutto questo sia soprattutto messo sotto controllo dal punto di vista sanitario al più presto, perché ho capito, Deborah, che qui la crisi non è finanziaria o economica, ma è soprattutto sanitaria, e poi da lì deriva tutto il resto. Andrei ringraziando Luca Tobagi al giornale Radio del Risparmio, e poi parleremo nella seconda parte della trasmissione di affitti, rogiti e quant'altro, insomma, coinvolge e concerne il lavoro del notaio. Giornale. Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Mm. Allora, Deborah, innanzitutto da una notizia di servizio. Molti ci state scrivendo al 349-238-6666, qualcuno via SMS, qualcuno via WhatsApp, chiedendoci l'applicazione puntuale di misure, non so, i 600 euro per i professionisti, l'applicazione del testo del DPCM in base all'allegato che contiene le attività consentite, eccetera. Allora, voglio consigliarvi di utilizzare anche il forum dell'Esperto Risponde, che abbiamo attivato qui al Sole 24 Ore. Lo trovate su internet, ilsole24ore.com/, cioè la sbarretta, forum coronavirus, tutto attaccato. Lì ci sono già, c'erano già ieri sera più di 200 risposte, circa 200 risposte degli esperti, molte proprio su questi temi che riguardano il decreto legge numero 18. A te invece la prima notizia del GRR. Allora, questo è molto importante. Le Poste Italiane ci hanno chiesto di aiutarli nella divulgazione di questa comunicazione. Per la verità hanno realizzato anche uno spot televisivo che sta andando in onda continuamente. Allora, nei mesi di aprile, maggio e giugno il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni, proprio per evitare assembramenti anche negli uffici postali che continuano ad essere aperti. Per cui dal 26 al 31 marzo verranno erogate le mensilità di aprile 2020, dal 27 al 30 aprile ci sarà l'apertura appunto per la mensilità di maggio 2020, dal 26 al 30 maggio verrà erogata la mensilità di giugno 2020. Questo è stato stabilito dall'ordinanza appunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è stata emanata il 19 marzo scorso. Per le pensioni del mese di aprile, allora chiaramente queste verranno accreditate regolarmente il 26 marzo per tutti i titolari di un libretto di risparmio, di un conto banco posta, di una PostePay Evolution. Per quello che riguarda invece tutte quelle persone che generalmente vanno a ritirare personalmente il proprio trattamento pensionistico, la propria pensione, quindi parliamo naturalmente pensionati che ci stanno ascoltando in questo momento, potranno ritirarle in base alla iniziale del proprio cognome. Quindi se il vostro cognome inizia con la lettera A o B, potete andare a ritirare la pensione giovedì 26 marzo. Le persone il cui cognome inizia con la C o la D possono andare a ritirare venerdì 27 marzo e via andando. Poi abbiamo dalla E alla K, si può andare a ritirare sabato 28 marzo. Per i cognomi che iniziano con la lettera L O lunedì 30 marzo, lettera P R martedì 31 marzo, S Z mercoledì 1 aprile. E quindi fate attenzione, non andate inutilmente perché altrimenti non vi possono accontentare. Mauro, magari facciamo circolare anche su Facebook, così qualche nipote potrà dare questa comunicazione ai propri nonni. Senz'altro. Se si fosse persa. Se non avete potuto prendere nota di tutto quanto, www.poste.it, c'è anche un video che spiega appunto il pagamento delle pensioni di aprile. Trovate queste informazioni che vi ha riassunto Deborah tutte in dettaglio. Invece Deborah, io ti voglio dire una cosa che è un pochino spiacevole per certi versi, perché l'autorità garante per la concorrenza e il mercato ha disposto un intervento in via cautelare nei confronti di una piattaforma di raccolta fondi che in realtà sta funzionando molto bene in questi giorni. Se, come al solito, diciamo, misuriamo sempre una notevole generosità, verifichiamo sempre una notevole generosità da parte di noi italiani nelle difficoltà. La piattaforma è www.gofundme.com, gofundme.com, lo leggo così come è scritto per agevolare chiunque, e gestisce appunto una piattaforma, è una piattaforma attraverso la quale si fanno delle donazioni alle cose più diverse. Che cosa non convince l'autorità per la concorrenza? Il fatto che quando si arriva alla donazione poi viene imposto praticamente in automatico un versamento anche per la piattaforma stessa, che certo ha tutto il diritto di doversi mantenere, di dover probabilmente mantenere anche le persone che lavorano per lei per questi fini assolutamente nobili, però quello che rimprovera l'autorità garante è: dovete essere espliciti e trasparenti su questa cosa e non in qualche modo prelevare quasi in modo che il donatore non se ne renda conto. Allora, c'è aperto un intervento per adesso in via cautelare, vedremo se si adeguerà la piattaforma stessa, renderà il tutto più visibile e più leggibile anche da parte dei donatori. Prego. Noi nei prossimi giorni magari vi daremo anche conto di tutte le altre iniziative che il sistema finanziario sta mettendo in campo per venire più incontro possibile, quanto più incontro possibile alla propria clientela. Volevo leggere però una notizia che è arrivata poco fa da parte dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Il presidente dell'associazione Antonio Patuelli insieme al direttore generale Giovanni Sabatini hanno invitato tutte le banche associate a non riscuotere commissioni su bonifici o altre forme di trasferimento fondi disposti a favore della protezione civile sui conti correnti dedicati agli aiuti per l'emergenza Covid-19, perché l'obiettivo è quello di offrire il proprio supporto all'importante ruolo svolto in questo momento dalla protezione civile che sta facendo fronte a questa situazione emergenziale che l'Italia sta vivendo. Per cui se volete fare una donazione attraverso disponendo un bonifico dal vostro conto corrente al conto appunto della protezione civile, nel caso in cui la vostra banca vi chieda 1,50 euro per il bonifico che state facendo, ecco, l'ABI non è d'accordo e sta invitando tutte le banche a fare questa operazione in maniera gratuita. Chiaramente ci sembra il minimo sindacale. Mauro, è tardissimo, ci sono tardissimo, tanti ascoltatori, sì, che già stanno chiedendo sui rogiti in sospeso. Faccio velocemente la borsa. Brava, lo appoggio senz'altro la tua strategia, le borse. 10 e lode, come sempre. Grazie. Come tutte le mattine, vi trovo di una preparazione adamantina. Due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno. A dicembre io e la mia compagna abbiamo firmato il compromesso per l'acquisto di una casa e contestualmente abbiamo comunicato alla proprietà la disdetta del contratto di affitto secondo i termini previsti. Ora i tempi comunicati per lasciare l'alloggio sono prossimi e ci troviamo bloccati per la stipula del rogito e gli atti finali del mutuo, dato l'attuale situazione che stiamo tutti vivendo. Come possiamo fare? Grazie mille, Luca da Varese. Cara Debora, questo è solo uno dei tanti, tantissimi messaggi che arrivano. Ci sono delle scadenze, degli appuntamenti già presi che sono stati, per così dire, travolti dall'emergenza. Ora, naturalmente è chiaro che non c'è niente di più importante se non la tutela della salute nostra e di tutti coloro che ci circondano, però dall'altra parte, insomma, ci sono anche delle cose pianificate da tempo e che non si capisce come si possano mettere tra parentesi, rinviare, sospendere, annullare. Allora noi abbiamo interpellato Giulio Bino, che è consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione, notaio naturalmente. Gli diamo il benvenuto a Due di Denari. Buongiorno notaio. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito. Allora, non so Debora da dove cominciare, perché qui abbiamo il caso, mi sembra più importante quello del rogito. Dopo tanti mesi, tante trattative, la banca, troviamo i soldi eccetera, avevamo fissato un bel rogito, questo è il tema di tutti, di tantissimi ascoltatori, e doveva svolgersi proprio in questo momento in cui tutto è bloccato. Allora, che si fa notaio? Qual è come decifriamo la ridda delle ordinanze, dei decreti legge, anche le leggi professionali? Allora, purtroppo siamo ovviamente travolti dalla produzione normativa di questo momento emergenziale, che evidentemente mira in primis alla tutela della salute. Diciamo che per questo tema è intervenuto il decreto Cura Italia, quindi il decretone, quello emesso il 17 di marzo, quindi recentissimo, con l'articolo 91, che sostanzialmente porta una deroga agli articoli 1218 e 1223 del codice civile, che prevedono la responsabilità comunque dell'inadempiente se non per impossibilità sopravvenuta. Quindi di fatto prima dell'emanazione di questo decreto ci si poteva rifare solo al buon senso, sempre utilissimo nelle situazioni emergenziali peraltro, e quindi, considerando la situazione in cui ci troviamo a vivere, chiedere alla controparte di posticipare, chiedere di rinviare anche sine die a un certo punto, perché qui non si capisce bene, si potrà a maggio, si potrà a giugno, non lo sappiamo, insomma in questo momento per nessuno certi versi, può anche sine die, esatto. Rimane poi la possibilità, considerando che gli studi notarili sono aperti, esatto, se si tratti proprio di un caso indifferibile e urgente, di stipulare comunque. È chiaro che però le difficoltà che si vengono a sovrapporre sono molte, e quindi sapere che questa norma del decreto Buonitalia crea una sorta di paracadute può essere molto tranquillizzante per la cittadinanza, ecco. Debora, abbiamo problemi col collegamento, adesso cerchiamo di ripristinarlo. Mi provo a inserirmi io. Io sento benissimo lei e molto meno Debora. E quindi adesso cerchiamo di lavorarci, c'è di là dal vetro, stanno sudando le proverbiali sette camicie. Chiediamo scusa anche agli ascoltatori. Non sarebbe emergenza Covid se fosse tutto perfettamente... Come ha ragione. Allora, l'articolo 91, che oramai diciamo tra noi cultori della Gazzetta Ufficiale è diventato una specie di perno attorno al quale ci affatichiamo per giorno e notte da settimana scorsa. Ci sono coloro però che, mettiamo il caso, allora avevano non solo il rogito ma anche il trasloco, magari in comune diverso. Adesso c'è un decreto, ad esempio in Lombardia, ma anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre all'ordinanza lombarda, dice non spostatevi dal vostro comune. E se uno invece si spostava di comune con il rogito, che si fa? E questo è un caso in cui l'articolo 91 dovrebbe parlare a nostro favore. È impossibilità sopravvenuta, mi pare sia questa la formula giuridica giusta, notaio. Direi che questa è proprio la chiave di lettura dell'articolo 91 per far fronte non soltanto alle richieste di danni, ma anche alle richieste di penali legate magari a un termine essenziale inserito nel preliminare. Per cui diciamo che quella norma letta con la dovuta, anche qui col dovuto buonsenso, è stata inserita appunto in via emergenziale e quindi va come tutte le norme lette con buon senso, può consentire di arrivare appunto a un rinvio, come diceva correttamente lei, anche sine die. Poi anche qui sul discorso dello spostamento da comune a comune ci sono dei correttivi, la possibilità di stipulare una procura, il notariato ha emesso un provvedimento in forza del quale in via, come dire, anche qui emergenziale, è consentito il rilascio di procure anche ai dipendenti dello studio, cosa che normalmente la deontologia non prevede. E qui sempre nell'ottica di favorire quanto più possibile la soluzione dei casi più spinosi. Certo, le vorrei far ascoltare la domanda di un ascoltatore, perdonate il bisticcio, Maurizio, che ci ha chiamato da Torino. Debora, sei tornata tra noi, mi pare di capire dai cenni. Sono tornata fra di voi, sì, mi senti bene adesso? Benissimo, forte e chiaro, ottimo. Faccio sentire allora Maurizio da Torino. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti e grazie per l'occasione. Allora, ci chieda. La domanda è questa, i miei suoceri l'anno scorso, il 31 maggio, hanno venduto la loro casa dove abitavano, in un comune limitrofo a Torino. Si sono trasferiti a Torino, hanno comprato una casa facendo e pagando il 2% di imposta di registro, cioè l'hanno acquistata come prima casa, con la promessa, ditemi se sbaglio, allo Stato di vendere la casa dove abitavano entro un anno. Purtroppo sapete le vicissitudini, all'inizio per altri motivi, adesso sono riusciti a trovare un acquirente, la mia domanda è questa, è prorogato, cioè quel termine di vendita, perché altrimenti se non vendono, scusi, la riassumo e gli do subito la parola al notaio, scusi Maurizio, se loro non ottemperano vanno a pagare il 9% di registro, mi pare di ricordare, notaio, è così, diceva anche il nostro ascoltatore. Esattamente. Ma perde il beneficio della prima casa? Se non possono materialmente farlo, che si fa? Si sposta in avanti questo termine, anche se nessuna disposizione di legge l'ha fatto però. Al momento su disposizioni come queste il legislatore non è ancora intervenuto, quindi oggettivamente si potrebbe di nuovo provare a sostenere l'impossibilità sopravvenuta di ottemperare nel termine prescritto. È chiaro che questo invece, a mio modo di vedere, dovrebbe proprio rientrare in uno di quei casi indifferibili e o urgenti previsti dalla legge per riuscire a stipulare nei termini. Come notariato restiamo aperti, proprio anche per far fronte a queste esigenze, a queste scadenze di termini alle quali il legislatore non ha ancora potuto provvedere, e quindi favorire e permettere la stipula di atti come questi che, se non stipulati nei termini, portano delle conseguenze. Infatti io ho una curiosità, perdonate, le successioni, non stiamo parlando di persone che sono decedute adesso, chiaramente, perché ci sono 12 mesi di tempo, se ricordo bene, notaio. Ma corretto. Se vengono a scadenza ora, anche lì non c'è stata nessuna proroga, quindi in qualche modo bisognerebbe chiuderle queste successioni. Al momento vale anche per le successioni. I termini di presentazione delle dichiarazioni di successioni non sono stati prorogati. Quindi quello che ci conforta, scusami Debora, è che gli studi notarili sono aperti. Prego Debora. Infatti, esatto. Allora, visto che questa opportunità c'è, anche se appunto l'operatività è resa problematica in questo periodo per tutte le questioni che stiamo affrontando, mi chiedo, notaio, che tipo di domande vengono a farvi le persone in questo momento? Che tipo di consulenza si è reso necessario rafforzare in questa fase, oltre che rispondere a tutte le persone che si sono viste saltare la compravendita appunto immobiliare, perché magari appunto la banca peraltro ritarda magari l'erogazione del mutuo in attesa di capire cosa succede. Peraltro c'è anche tutta l'attività, Mauro, e ne scrivete voi stamattina sul Sole 24 Ore, dei periti che devono fare le perizie sulle case, chiaramente per quantificare l'erogazione del mutuo, quindi anche quello è un meccanismo che si inceppa in questo momento e che ha poi tutte le ricadute sulla finalizzazione dell'atto. Per cui, notaio, in questo momento su che cosa avete dovuto rafforzare la vostra attività di consulenza, il vostro presidio? Dunque, io credo che il dovere principale del notaio sia quello di tranquillizzare, invitare alla prudenza e alla calma. Questo è un po' insito nel DNA del notariato e nel DNA dei notai. La consulenza tendiamo a prevederla unicamente in via telefonica, proprio per evitare spostamenti negli studi notarili, semplicemente proprio per la prestazione di una consulenza, e ovviamente i casi che si sono venuti a prospettare sono i più disparati. Evidentemente i principali sono quelli legati alle scadenze di termini, però di vario genere, quelli di cui abbiamo parlato fino ad ora. Ovviamente ci sono le necessità di redigere un testamento, ci sono le necessità di dettare una disposizione anticipata di trattamento, ci sono le necessità di stipulare delle procure. Diciamo che quello che si avverte moltissimo, e credo che non valga soltanto per il notariato, è un problema in questo momento di tutti, è l'incertezza, l'agitazione, lo spavento. Una valida consulenza legata proprio a tranquillizzare sulla possibilità di ovviare a ciascuno di queste problematiche, credo che sia la miglior prestazione notarile di questo momento. Allora, io dico una cosa, non ci eravamo accordati, notaio, ma lei mi perdonerà. Se andate su www.notariato.it, che è il sito nazionale del notariato, potete anche rintracciare il notaio magari più vicino a voi e la sua email soprattutto, perché inviterei, non so se lei è d'accordo, notaio, a utilizzare soprattutto questi strumenti di contatto a distanza. Cosa ne dice? Sono assolutamente d'accordo. Il nostro sito è ovviamente sempre aperto e contiene anche non soltanto la possibilità di rintracciare il notaio più prossimo a cui rivolgersi, ma anche tutta una serie di FAQ legate alla possibilità per i cittadini di trovare delle risposte alle domande più immediate senza neanche dover arrivare alla telefonata allo studio. È chiaro che sono FAQ proprio per questo motivo, cioè certo, abbiamo cercato di dettare delle risposte per i casi che ci sono sembrati più frequenti, più comuni. Ovviamente poi il ventaglio di possibili interrogativi è talmente esteso che può essere poi necessario sfruttare anche la ricerca del notaio attraverso il nostro sito. Allora, mi scuso perché siamo in fortissimo ritardo, 2 minuti e più, ma è il momento del traffico. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati. E in questo periodo difficile continuiamo ad esserci. Anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video, con contenuti speciali creati apposta per te. che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. Due di denari. Sì, ma cosa serve tenere aperti notai, commercialisti, avvocati? È un'urgenza? Chi è che si sposta per andare dal proprio avvocato? Le scadenze non le hanno rinviate tutte per piacere, perché le bollette vanno pagate. E se poi c'è un ufficio aperto postale su 10 e una banca su 10, la gente si assembra fuori dalle banche e dagli uffici postali, come fa sui supermercati. Buongiorno, sono un commercialista, ho appena sentito che si parlava del discorso degli studi professionali eventualmente chiusi come il mio. Vorrei dirvi che il 31 di marzo c'è una scadenza per tutti noi, che è quella della consegna e trasmissione delle certificazioni uniche. Questa scadenza originariamente era del 7 marzo e con un decreto era stata spostata al 31 di marzo. Ad oggi non è stata poi ulteriormente prorogata e quindi noi siamo costretti a venire qua a lavorare. Allora Mauro, intanto al nostro amico commercialista possiamo già preannunciare che avremo il presidente dei commercialisti italiani mercoledì a Due di Denari, per cui proveremo a capire come devono comportarsi in questo frangente estremamente problematico anche per loro, giusto? Perché hai trattato tu per avere Miani da noi e sì, quindi so che... te lo confermo Deborah, ma vedi, bene. Il problema del commercialista, così anche come quello di avvocati eccetera, si stanno scrivendo in molti, tipo dei professionisti, è più legato a queste scadenze, perché alcune scadenze sono state espressamente rinviate, ma il sistema non solo fiscale ma anche civilistico nostro è molto complicato, quindi o si fa una disposizione, come dire, totale, globale, che dice tutto quello, qualsiasi cosa stia scadendo viene rinviata, ma non so neanche se una cosa del genere abbia senso. Lo chiederei al notaio Giulio Bino, che abbiamo in collegamento. Notaio, non si fa prima a dire va bene, tutto quello che scade da qui a, non lo so, a Pasqua lo rimandiamo a maggio? Diciamo che detto così sarebbe veramente l'uovo di Colombo e renderebbe a tutti la vita molto più facile. Ma evidentemente non si può, quindi purtroppo io sto dicendo una bestialità normativa. Oggettivamente non è possibile, però allo stesso tempo questo continuo sovrapporsi di produzione normativa, tra l'altro da fonti diverse, quindi con una problematica anche di gerarchia delle fonti, chi prevale su cosa, sta rendendo oggettivamente a tutti noi interpreti e operatori del diritto la vita particolarmente complessa. Però va capito il momento emergenziale, va capita la difficoltà in cui si trova il nostro governo, va capita l'esigenza primaria su tutte, che è quella della tutela della salute. È una di quelle volte in cui la fatica ad interpretare le norme, secondo me, vale la spesa. In che senso? Allora, leggerei... Ah, sì, no, scusami. Perché mi ha incuriosito questa la fatica vale la spesa, notaio. Nel senso che spesso ci troviamo ad affrontare norme emanate in momenti di assoluta tranquillità, di difficilissima interpretazione, sulle quali dobbiamo affaticarci, arrovellarci e poi arrivando a soluzioni magari ancora controverse. In un momento emergenziale la difficoltà è a produrre norme va capita, e quindi questo intendevo nel dire vale la spesa far fatica per interpretarle, perché va capita la difficoltà di chi le sta emanando. Vai Deborah. Sì, allora tornerei a tutte le persone che avevano così, accarezzavano il sogno di diventare proprietari, e in questo momento questo sogno deve essere deve essere chiuso, arginato per un attimo, appunto, perché bisogna spostare queste operazioni. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori che il mondo dei notai è sempre estremamente disponibile con due di denari, per cui tutte le persone che ci hanno scritto troveranno una risposta. Metteremo subito in azione la task force dei notai per farci aiutare a rispondere in privato a tutti gli ascoltatori che adesso non riusciamo ad accontentare. Potete continuare a scriverci a due di denari @radio24.it. Però un paio di domande magari le possiamo leggere in diretta al notaio Bini. Vista la chiusura del cantiere dove sto acquistando un appartamento, ci chiede Anna Maria, il costruttore non garantisce la consegna entro i 12 mesi dalla vendita dell'altro appartamento. Allora, come posso fare per il credito d'imposta che scade a fine maggio? Come posso fare per non perdere il credito? In realtà abbiamo ancora 2 mesi davanti a noi, notaio, però Anna Maria può tutelarsi in qualche maniera contro questa eventualità? Al momento è una di quelle norme di cui parlavamo prima col suo collega, non è stata prevista una proroga di queste scadenze al momento, per cui purtroppo tutelarsi in via preventiva non è possibile. È chiaro che segnalando tutte queste difficoltà si potrà magari arrivare ad una successiva disposizione normativa che vada un po' nel senso di quella proposta prima, non una generalizzata proroga di tutte le scadenze, ma pur nell'ambito della selezione delle proroghe una facilitazione per tutti coloro che si trovino a fronteggiare queste problematiche. Mi scuso perché l'ho chiamata notaio Bini invece di Bino. E perché ho cannato la vocale. Il nome corretto si è sdoppiato. Allora rettifichiamo. Senti, Mauro, Bino. Facciamo raccontare al notaio la cosa divertente che ha fatto con il suo studio per così raccomandare ai suoi clienti di non assembrarsi nel caso avessero bisogno di una consulenza veloce, notaio. No, perché magari il suo suggerimento viene anche così, un po' la sua esperienza viene raccolta anche da altri suoi colleghi. Diciamo che tra le prescrizioni che ho adottato e che ho inserito all'ingresso dello studio e poi anche all'interno, ma questa è all'ingresso dello studio, ho previsto che i clienti, qualora si decida che possiamo stipulare un determinato atto, debbano arrivare puntuali e non in anticipo. L'invito è, se siete in anticipo, tornate in strada. Questo semplicemente perché affollarsi all'interno dello studio, che comunque è un ambiente chiuso, può dare preoccupazioni tanto ai dipendenti quanto ai clienti stessi. Quindi nell'ottica di stipulare ovviamente il meno possibile, perché questo è una delle precise indicazioni che emerge da tutti i decreti che si sono succeduti, limitare al massimo l'attività, rinviare tutto quello che è possibile, proprio per andare incontro alla mantra restate a casa, ma in quell'ottica di prestare servizio indifferibile e urgente, la puntualità è sicuramente uno dei requisiti da scegliere. Ho anche adottato delle penne monouso che quindi faccio utilizzare ai clienti e poi regalo, in modo tale che ciascuno firmi con una sua penna che poi si porta a casa, in modo tale da evitare contatti con oggetti da parte di più soggetti. Io riassumo, Deborah, in questi ultimi 2 minuti scarsi che abbiamo, 2 questioni, non facciamo in tempo a sentirle. Allora, una, Lucia entra ancora sul discorso del rogito che non si può concludere, ma ponendo un altro aspetto, se nel compromesso ho scritto che il tutto va concluso entro una certa data, lei dice il 30 aprile, ma potrebbe essere il 31 marzo, e non posso rispettarla, che succede? Cioè decade tutto dall'inizio, anche il contratto, il preliminare, eccetera, eccetera, i versamenti iniziali? Rientriamo proprio in quella disposizione dell'articolo 91 di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione. È proprio la possibilità di sfruttare la norma dettata per una situazione emergenziale in modo tale da configurare la impossibilità di adempimento come impossibilità sopravvenuta, non andando incontro a tutte quelle conseguenze previste dal codice civile. Così, ma oppure anche aggiornare, prego, il compromesso, non lo so, facendo con uno scambio di mail fra tutte le parti in causa, aggiornare il compromesso mettendosi d'accordo nel rinvio di tutta l'operazione a quando la situazione esterna sarà un po' più serena. Questo non è possibile, non hanno alcuna validità eventualmente questi accordi così informali, se vogliamo, notaio? hanno assolutamente valore, e questo è un richiamo, come dire, al buon senso da cui siamo partiti. Diciamo che tutte le difficoltà, anche di queste situazioni, trovano quasi sempre una soluzione innanzitutto nel buon senso, nella comune volontà delle parti, nell'accordo che tenga conto delle difficoltà del momento. E allora, così abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione per oggi. Grazie, grazie al notaio Giulio Biino, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Noi torniamo domani. Domani parliamo di spesa, fare la spesa online, e anche di viaggi. Quindi tutti coloro che sono interessati ai rimborsi possono connettersi e collegarsi domani, ma naturalmente tutto il giorno, tutti i giorni con Radio 24. Grazie Deborah. Buona giornata a tutti, a domani.